Letture di Radio 24. Riparalo, non disperare. È lo slogan dei workshop organizzati a Londra da Ugo Vallauri e Janet Gunter, che insegnano ad aggiustare e ad allungare la vita degli elettrodomestici e dei gadget elettronici. Una moda che si sta diffondendo rapidamente e che si rivela vantaggiosa in tempi di crisi. Bollitore rotto? Computer lento? Non c'è bisogno di precipitarsi in negozio per rimpiazzarlo con l'ultimo modello. In tempi di crisi economica ed ecologica, il motto è «Riparalo, non disperare» e «Repair, don't despair» è per l'appunto lo slogan adottato da due trentenni. Ugo Vallauri e Janet Gunter, questi i loro nomi, l'anno scorso hanno dato vita al Restart Project. Sulle orme dei Repair Café di Amsterdam o dei Fixers Collective di Brooklyn, organizzano nella capitale britannica dei Restart Party, workshop mensili itineranti dove si impara gratuitamente a riparare il proprio gadget elettronico o elettrodomestico rotto. C'è chi arriva lamentandosi della lentezza del proprio portatile per poi scoprire che basta aumentarne la memoria, o chi si presenta con un rasoio elettrico malfunzionante e con l'aiuto dei volontari e di qualche tutorial pescato su internet riesce a farlo operare nuovamente. Con un po' di pazienza e di fortuna, alla fine si trova una soluzione all'80% dei problemi. L'idea, spiega Vallauri, trapiantato a Londra da Bra, mi è venuta dopo la mia collaborazione in Africa con l'organizzazione non governativa britannica Computer Aid. Lì non ci si sbarazza facilmente di qualcosa che può essere riparato, si aggiusta tutto. Mentre noi spesso compriamo oggetti non dettati dalla necessità, ma dalla pigrizia e dalla mancanza delle conoscenze necessarie per la manutenzione di quelli che abbiamo già. Il nostro obiettivo non è offrire delle riparazioni gratuite, ma sconfiggere l'obsolescenza programmata e recuperare la manualità in una società esasperata dal consumismo. Il primo Restart Party si è tenuto lo scorso giugno ed è stato subito un successo. Sin dall'inizio abbiamo raccolto l'interesse, continua Vallauri, non solo di chi spesso è frustrato dalla macchinosa e scoraggiante burocrazia delle garanzie previste dalle aziende produttrici, ma anche di chi vuole mettere la propria manualità e il proprio saper fare al servizio degli altri. E il prossimo passo dell'organizzazione sarà proprio la creazione di una rete che metta in contatto chi cerca servizi con chi li offre, appassionati di riparazioni, sviluppatori di software, eccetera. Complice la crisi economica, la cultura della riparazione sta soppiantando quella dell'usa e getta anche oltremanica. In Olanda gli antesignani Repair Café sono ormai una trentina e hanno persino ricevuto una sovvenzione governativa di quasi 500.000 di euro. Gli australiani imparano a recuperare i loro gioielli agli incontri mensili organizzati a Melbourne o a aggiustare e reinventare i loro oggetti al Bower Reuse and Repair Center di Sydney. Mentre a New York i Fixers Collective si incontrano una volta al mese. Anche in Italia, dove ogni anno vengono prodotti 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, non mancano iniziative simili, come la PC Officina, che organizza incontri settimanali a Milano, dove sul modello della ciclo officina si riparano computer tra una birra e una chiacchiera, o come l'oratorio digitale lanciato dall'associazione OIBO, che insegna ai ragazzi sopra gli 11 anni ad allungare la vita del cellulare o del lettore MP3 invece di inseguire le pubblicità dell'ultimo modello. La riparazione, insomma, è diventata un vero e proprio movimento, perché fa bene all'ambiente e al portafoglio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rosalba Castelletti «Non buttatelo quando si rompe. Ecco la scuola degli aggiustatutto», da Repubblica del 9 aprile. Parigi, martedì 15 aprile 1913, 1:30 di notte. Nel romanzo La prima inchiesta di Maigret inizia così la carriera da detective del personaggio di Georges Simenon. Il 15 aprile 1913 era un martedì qualunque a Parigi. Un giovanotto di 26 anni, piuttosto corpulento e coi baffi, sedeva mezzo addormentato a un tavolo dell'ufficio di polizia del quartiere Saint-Georges. Come segretario del commissario, gli era toccato il turno di notte insieme all'agente Lecoeur. Jules Maigret non sapeva ancora che stava per cominciare la sua prima inchiesta. Dunque, 100 anni fa nasceva Maigret, o meglio, nasceva in quanto commissario e iniziava un'immortale carriera di detective. Persino il suo autore, Georges Simenon, sentì il bisogno di annotare scrupolosamente la data storica nelle righe d'esordio del romanzo La prima inchiesta di Maigret. Quando nasce come commissario, Maigret ha 26 anni. È sposato da soli 5 mesi con l'alsaziana Louise, che lui chiamerà sempre affettuosamente signora Maigret, ed è poliziotto da 4 anni, dapprima agente ciclista, poi nella buon costume, infine segretario di un commissario di quartiere parigino. «Maigret non mi assomiglia», avrebbe detto in seguito Simenon. «Sono io che, invecchiando, cerco sempre più di assomigliare a lui». In effetti, a parte la pipa e Parigi, si direbbe proprio che lo scrittore abbia tracciato nel poliziotto non il ritratto di se stesso, bensì la nostalgia del personaggio che non aveva saputo o potuto essere. Tanto libertino, irrequieto, viaggiatore, raffinato bevitore di Bordeaux, amante del lusso, l'uno, quello vero, quanto monogamo, abitudinario, stanziale e piccolo borghese, il secondo, l'immaginario. I modelli di Maigret vengono piuttosto rintracciati per il carattere nel padre di Simenon, un metodico impiegato di Liegi morto ancor giovane, quando il figlio aveva solo 19 anni, e, quanto alla figura fisica, in un paio di poliziotti celebri nella Parigi degli anni 20, la Ville Lumière, in cui il giovanotto belga, che da ragazzo per qualche tempo avrebbe voluto farsi prete, si tuffò a tentar la fortuna come giornalista e autore di feuilleton. Eppure no, nel metodo di Maigret c'è moltissimo di Simenon, il quale era anche un lavoratore folle, con una capacità di concentrazione tanto mostruosa da essere in grado di scrivere un Maigret in una sola settimana. E soprattutto ce n'è in quel suo motto «comprendere, non giudicare», che s'abbina benissimo alla frase fissa con cui il commissario rispondeva a chi, durante un'inchiesta, gli chiedesse cosa pensava di quel caso. «Io non penso mai». Con tale filosofia, Maigret resta sulla breccia per 75 romanzi e qualche decina di racconti. La sua ultima inchiesta si svolge nel 1965 a Les Halles di Parigi, Maigret e l'uomo solo, allorché il commissario conta già 78 anni. Secondo la leggenda apocrifa raccolta dai suoi estimatori, Maigret sarebbe morto investito da un autobus di lì a non molto, nel 1972. Lo stesso anno in cui Simenon pubblicò l'ultimo giallo dedicato al commissario, Maigret e il signor Charles, per poi decidere all'improvviso di non scrivere più di lui. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roberto Beretta, Maigret, 100 anni da commissario, da Avvenire dell'8 aprile. Margaret Thatcher, la donna che è riuscita a cambiare il Regno Unito, che ha dominato gli anni Ottanta, un personaggio con luci e ombre, criticato e osannato, ma che indiscutibilmente ha cambiato il modo di fare politica e ha dato una spinta senza precedenti all'economia britannica. Ecco il ricordo della Lady di Ferro del giornalista Beppe Severgnini, che ha vissuto a Londra lungo tutto il decennio della Lady di Ferro. Margaret Thatcher terrorizzava gli inglesi, e gli inglesi rispettano coloro di cui hanno paura. Ma il terrore, pensate al cinema e alla letteratura, può essere un sentimento eccitante. Questa città e questo paese stanno riguardando un vecchio film che credevano d'aver dimenticato. Un film su un'epoca sepolta, gli anni Ottanta, il tempo in cui, grazie a una donna cocciuta, è cambiato tutto. Il Regno Unito ha imparato a lavorare, a guadagnare, a mangiare, a viaggiare. È stato scritto e detto molto in queste ore sull'eredità politica, economica, finanziaria, strategica e filosofica di Margaret Hilda Roberts, sposata a Thatcher, meno sul cambiamento antropologico che ha innescato. Pensate solo a questo. Fino agli anni Ottanta, money era una parolaccia in Gran Bretagna. La ricchezza si doveva intuire, non vedere. Da 20 anni gli inglesi parlano di soldi più dei brianzoli. Fanno pagare tutto a tutti, possibilmente in anticipo. Qualcuno sostiene che questo è declino, mentre è soltanto cambiamento. Gli anni Ottanta sono stati per il Regno Unito gli anni di Margaret Thatcher, come gli anni Sessanta furono gli anni dei Beatles. Il paragone non deve sembrare irriverente né agli amanti dei Fab Four né agli ammiratori del primo ministro. La signora di Grantham, come i giovanotti di Liverpool, ha segnato la storia britannica in modo indelebile. Nessuno potrà dimenticarla. Non me l'hanno raccontato. L'ho visto. Tra il 1979 e il 1989 ho osservato Londra cambiare, uscendo dalle porte di molte case. Ho sempre pensato fosse una città fantastica, ma dovesse convincersene. Ci ha messo 10 anni, ma ce l'ha fatta. Soltanto Margaret Thatcher ha avuto il coraggio di dire alla nazione quello cui mai un primo ministro aveva osato accennare. Innanzitutto che la Gran Bretagna aveva vinto la guerra, ma era come se l'avesse perduta. Nel 1945, povera e stremata, aveva smesso di essere una grande potenza. A quel punto doveva diventare qualcos'altro. Con i suoi metodi da bambinaia manesca, la signora ha costretto il paese a guardare in faccia la realtà. Gli ha insegnato che non è vergognoso, per uno dei più grandi imperi della storia, competere con la Corea del Sud. Che per un operaio, volersi comprare la casa non è un'infamia, ma una scelta di buon senso. Che aver battuto i nazisti per venire poi sconfitti dai sindacati non è soltanto folle, ma ridicolo. Londra è una città diventata adulta. Il merito è anche della sunnominata bambinaia. I laburisti ci misero un po' a capire che la signora non si accontentava di sconfiggerli a ripetizione, ma intendeva convertirli. I conservatori non si capacitavano di aver scelto come leader un personaggio del genere. I giovani inglesi, in maggioranza col cuore a sinistra, la odiavano. Nelle discussioni con gli amici venivo salvato dalla nazionalità. «Sei italiano», dicevano, «non puoi capire quanto è orrenda questa donna». Invece capivo, e capivo che non era orrenda. Era la tromba suonata nelle orecchie di una nazione che dormiva da troppi anni. Ma a distanza di tempo non ci possono essere dubbi. Viva la tromba e brava Maggie Thatcher! Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Beppe Severgnini, La vera storia di Maggie Poppins. Con lei Londra è diventata adulta, dal Corriere della Sera del 10 aprile.